Ciao, sono Daniel Oss, ex ciclista professionista, ora inviato al Giro. Mi sto divertendo un casino, ragazzi, non potete capire, è veramente una figata. C'è tantissima gente, bada la gente, e tantissimi colori, soprattutto il rosa, che è un colore che sta andando fortissimo. E sì, lo so, cioè, dai, va bene. Ascolta, Geronimo, prendi la linea, dai. Ma è rotto, ciao. Non canto, no. Siamo sulla lui guarda, cioè, l'unico passeggero che c'è sulla gondola con noi sta pensando di aprire la porta e buttarsi di sotto. Siamo sulla gondola, finalmente. Finalmente, un grande classico dei nostri Giri d'Italia. Gondola che in realtà è, come si chiama questo strumento? È un nuovo via. Però in inglese la chiamano gondola. Chi siamo noi per sottrarci a questa definizione? Spesso ai campi scuola di sci, così, i bambini le chiamano ovetto, ed è bello comunque prendere un ovetto. Gondola, no. Dobbiamo cambiare canzone però tra poco, perché stiamo arrivando al nostro mottolino amoroso. Sfumo il canfin? Sì, e mettiamo... Magari ti chiamerò mottolino amoroso, il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino arrampiato. No, di un gattino di Varsavia. Era del gattino di Varsavia, esatto. Amiche e amici del ciclismo, del Giro d'Italia, della bicicletta, strumento con cui affrontare le salite e con cui affrontare anche le discese delle montagne che finalmente abbiamo raggiunto dopo tanto peregrinare, prima verso sud, poi verso nord e secondo me in mezzo abbiamo fatto anche l'est e l'ovest, ma soprattutto amici e amiche del riposo. Siamo arrivati alla 15ª tappa di Geronimo, il podcast di Alvento con il supporto di Shimano, e la tappa che ci porta all'ingresso della giornata, quella che più amiamo tutti quanti, il giorno di riposo. E riposo, ricordiamolo sempre, fu un grande successo perché in 30 pagarono il biglietto e andarono dentro a dormire. Che parola riposo, Michele Pelacci. Bella, bellissima. Domani però si fa il mottolino in bici, vero Filippo? Manco morto. Domani si riposa, c'è scritto, si chiama riposo e il riposo è magia, come direbbe Franchino. Insieme a noi c'è anche Marta Bacigalupo. Adesso mi hai rattristato su Franchino, col quale condividevo il compleanno, e gli mando un caro saluto. E Leonardo Piccione. Eccomi qua, ciao. Reduce dal 27esimo caffè. Quanti siamo oggi? Oggi l'ultimo, sei andato a farlo adesso. Sì, sei andato in fuga per prendere un caffè. Esatto, ero quasi in astinenza. Quinto, beh dai, buono. Domani per il giorno di riposo quanti? Domani mi raccomando, giorno di riposo. Il giorno di riposo non, sì, non mi serve. Lesinare col caffè. Va bene, tanto domani, devo dire, puoi anche così startene un po' tranquillo a casa Valeria, a Livigno, dove ci troviamo in questo momento, sempre che riusciamo a rientrare, perché c'ha di nuovo la maledetta cassettina con i numeri per entrare e non lo sappiamo. Non sappiamo se esista Valeria perché esiste una cassettina, sappiamo però che Livigno è il luogo dove ci troviamo ed è anche il luogo che avrà dato origine, mi viene da immaginare, a un acrostico. Sì, come al solito, ricordiamo la regola che si usano solo le località prima delle parentesi, quindi Mottolino, che è tra parentesi, non l'ho utilizzato, ho utilizzato solo Livigno, e è venuta fuori questa cosa qui. L'illustrissimo vandalizza il giro, nessuno obietta. L'illustrissimo, sai chi è, Michele? Certo, immagino Pogacar. Immagini bene. Ma ti stupirò, perché anch'io oggi ho preparato un acrostico. Primo... Se mi stupisco te lo devo dire dopo, no? Non prima. Sentiamolo. E primo poi... e ultimo. Primo e ultimo. Prometto, okay. Sì. Anche il mio parla della grandeur dell'illustrissimo. Fa così. Non si spiegano gli acrostici, si declamano e basta. Vado allora. Lastre incise, virgola, valenti iscrizioni, virgola, giuntamente narrano, due punti, onnipotenza. Va bene, stai migliorando. E l'onnipotenza finale è particolarmente azzeccata, visto quello che c'è stato oggi al Giro d'Italia, un atto di onnipotenza come pochi ne abbiamo visti in tempi recenti, e sicuramente in questo Giro d'Italia, per quanto già ce ne fossero stati in precedenza. Allora, mentre io sono completamente ancora ottenebrata, oltre che dai vostri acrostici, da quello che ho visto oggi, perché voi ne avete già viste tante di cose del genere, ma io ero con gli occhi sgranati come una bambina, vorrei che adesso qualcuno mi riassumesse bene quello che è successo oggi, perché non sono sicura di averlo capito. Michele, vai con le tue sillabe d'amour. Che pensi mi, come dicono Livigno, vari gruppi di fuggitivi si sganciano sulle rive del lago di Garda e approcciano le due salite prima della Val Camonica con grande vantaggio. Tra questi fuggitivi, più di una cinquantina in tutto, ci sono Storer e Piganzoli, Quintana e Juanpe Lopez, ma anche alcuni velocisti, gregari, insomma, mezzo mondo in fuga. Sul Mortirolo rimangono davanti i soli Pellizzari e Scaroni, ed è proprio la Volpe di Botticino Sera a transitare per prima sul GPM. In Valtellina il duo di testa raccoglie qualche altra unità, e sul Falsopiano, verso il Foscagno, attacca Davide Piganzoli e Enfant Dupay. In gruppo, intanto, sul Foscagno, Grosschartner termina il lavoro. Non ridere, Filippo, per la mia pronuncia francese. No, perché l'hai scritto Pai ed è molto bello, ci piace. Termina il lavoro. Grazie a Rafał Majka, i 3 minuti di vantaggio della fuga iniziano a diminuire. Ai meno 20, Steinhauser attacca, inseguito da Quintana. Si sfalda il gruppetto degli inseguitori, così come si sfalda il gruppo Maglia Rosa. Alle 16.30 di una soleggiata domenica di metà maggio, Tadej Pogacar, di nuovo, attacca. Dani Martinez è il solo ad accennare un brevissimo inseguimento, ma la Maglia Rosa è incontenibile. Rientra su, fuggitivo dopo fuggitivo. L'ultimo che riesce a saltare prima del Foscagno è Steinhauser. Rimane davanti il solo Nairo, che Pogacar si mangia all'attacco del muro del Mottolino. Quarta vittoria di tappa, dunque, per Pogacar. Secondo Quintana, terzo Steinhauser, agli altri non rimane che le briciole. Eh sì, agli altri non rimangono le briciole. No? Disastro, problema di accordanza qua, soggetto verbo, follia. Almeno così una traduzione, una correzione dovevo fartela. Ordine d'arrivo della tappa di oggi, avete appena sentito da Michele, che ha vinto Tadej Pogacar con 29 secondi su Nairo Quintana, fuggitivo. Uno dei tanti fuggitivi di questa tappa, sentirete tanti nomi e tante voci in questa puntata. Terzo Georg Steinhauser a 2.32 e quarto Romain Bardet, che ha preceduto di pochi secondi, 3 nello specifico, la coppia formata da Dani Martinez e Geraint Thomas, che sono arrivati quinto e sesto rispettivamente con 2 minuti e 50, queste le proporzioni di oggi, da Tadej Pogacar. Settimo e ottavo Rubio e O'Connor, quest'altra coppia che hanno perso 8 secondi da Martinez e Thomas. Nono Arensman a 3.05, decimo Hirt a 3.20. Zana è arrivato undicesimo a 3 minuti e 35, giornata non positiva per Tiberi, che è arrivato quattordicesimo e ha perso 3.59 da Pogacar, ma soprattutto 1 minuto e 09 da Geraint Thomas e Dani Martinez. Giornata anche così per Lorenzo Fortunato, che ha perso 5 minuti e 24. Giornata proprio no per Alex Bodin, che ha perso un quarto d'ora ed è uscito dalla top 10 della classifica generale. Bodin per me sarà sempre in top 10, non fermerete il mio amore per i francesi. Nessuno ha questo obiettivo. Temevamo... Bene che hai letto tutta la classifica, perché Michele Pelacci, uomo del boicottaggio, non ha citato nel suo riassunto né... nessuno dei due corridori che a Roma affiancheranno Pogacar sul podio, Einer Rubio e Jan Hirt. Rubi! Oh. E invece fortunatamente Leonardo ha recuperato. Sì, ieri alla vigilia di questa tappa si ipotizzava che qualcuno avrebbe preso un'imbarcata oggi, no? Era la tipica giornata dopo la cronometro 5 Gran Premi della Montagna in cui si vede uno degli uomini di classifica andare in crisi. Nessuno ha preso una vera imbarcata, o forse l'hanno presa tutti da Pogacar. Sono due prospettive diverse, forse entrambe vere. Probabilmente sono stati anche tutti molto molto attenti a non prenderla questa imbarcata. Io ho avuto così questa impressione del non rispondere all'azione di Pogacar. Poi è vero che ci vogliono le gambe per rispondere, però come se fosse continuiamo a galleggiare prima di accelerare, prima di planare, come direbbe Michele Pelacci. sta di fatto che stasera i distacchi in classifica generale sono spaventosi, ve li vado a leggere. In maglia rosa, forse dal barbiere l'avete sentito, anche se domenica i barbieri sono chiusi, Tadej Pogacar con 6 minuti e 41 su Geraint Thomas secondo e 6 e 56 su Dani Martinez terzo. Quarto è Ben O'Connor con 7.43. Quinto è ancora, come ieri, Antonio Tiberi, ma stasera a 9 minuti e 26 di ritardo da Pogacar e un minuto e mezzo dal podio, dal terzo gradino del podio, occupato in questo momento da Dani Martinez. Quindi forse Tiberi un attimo nella lotta per il podio perde quotazioni, anche se non posizioni in classifica oggi. Sesto, Aresman a 9.45. Settimo, guadagna una posizione Romain Bardet, 10 minuti e 49 da Pogacar. Ottavo, Filippo Zana. Nono, Einer Rubio, rientra in top 10. E decimo, guadagna ben 3 posizioni Jan Hirt, che appunto chiude la top 10 con 13 minuti e 11 di ritardo da Tadej Pogacar. Questa è la classifica generale, ci addentriamo adesso nei temi di questa tappa, come siamo soliti fare in questo Giro d'Italia, estraendo un tarocco, la giromanzia di Marta Bagicalupo. Qual è la carta che ci aiuta oggi a introdurre un tema di questa bella tappa che abbiamo visto? Cari miei, la carta di oggi ho estratto il mondo, perché è tutto ai suoi piedi, signori miei. Il mondo è l'arcano maggiore più apprezzato, perché è molto difficile nella, diciamo, per il consultante trovare tracce di negatività. È la carta del trionfo assoluto. Significa e racconta un periodo di successo senza pari e simboleggia tutto ciò che di bello, stabile, duraturo, positivo possa immaginare un essere umano per la sua vita. Infatti oggi Tadej era veramente felice, era soddisfatto, era consapevole, ma anche molto misurato nelle sue motivazioni e parlava con gioia della strada, della corsa, facendo anche i complimenti, usando proprio chapeau per i suoi avversari nella fuga, e parlava anche della sua vita personale, dicendo che è particolarmente felice perché Livigno è legata a ricordi felici dell'inizio della sua storia con Ursca. Questa carta significa anche la perfetta coscienza del posto che si occupa nell'universo e del proprio ruolo. Quindi con questa aura e forza magnetica che abbiamo visto oggi e che vi assicuro che è proprio così, direi che chiudiamo questa giromanzia. Wow, che finale anche da giromante che ci hai fatto. Eh sì, Tadej, magnetico, mondiale, secondo la carta del mondo. Tadej che oggi era... Io ho avuto l'impressione che Tadej si fosse segnato questa giornata, ed è un'impressione che l'ho avuta non tanto da quello che ho visto in corsa, perché le imprese Pogacar gliele abbiamo viste fare in tante occasioni, ma dalla rilassatezza con cui ha gestito il dopocorsa, che è una cosa nuova, per quanto Pogacar stesse sicuramente migliorando anche nelle sue reazioni dopo la corsa. Ne abbiamo parlato tanto, forse fin troppo, nella prima parte di giro. Sono molto contento che questo argomento sia un po' uscito dai radar, ma... Così, è come se avesse messo a posto una cosa che doveva mettere a posto. E adesso, infatti l'ha anche detto, adesso che si trova nella condizione per cui la prossima settimana lui può fare la sua cosa. È una vittoria clamorosa. Io non ricordo, voi che avete visto più tappe di me al Giro d'Italia, ditemi se avete mai visto in una seconda settimana, alla fine di una seconda settimana, un distacco così grande, un dominio così evidente. Cito solo un dato prima che tu possa rispondere, Leo. 6 minuti e 41 al secondo in classifica generale sono il gap più ampio da Carlo Clerici 70 anni fa su tale Gerrit Voorting. Incredibile. Sì, i numeri aiutano a spiegare quello che abbiamo visto e che stiamo vedendo in questo Giro d'Italia. Non spiegano tutto, perché poi quello che ho visto l'ultima salita, il Foscagno e poi il Mottolino di Pogacar, è la differenza più grande in poco tempo fatta, no? Ha dato 3 minuti praticamente ai suoi avversari diretti in classifica generale in pochissimi chilometri, oltre poi ad aver recuperato tutti i fuggitivi, che era più nell'ordine delle cose. Ma 3 minuti a Geraint Thomas, a Dani Martinez e a tutti gli altri in poco tempo, in due salite o una e mezza se vogliamo, è qualcosa che onestamente non credo di aver visto in tempi recenti. Poi ci sarà da discutere no, di quanto questo poi sia spettacolare e quanto giovi a, in linea di massima o in linea proprio, come dire, complessiva all'economia dello spettacolo di questo Giro d'Italia. Ha fatto una cosa spettacolare senza avversari. Quindi c'è da bilanciare queste due cose. Beh, se lo spettacolo è quello che ha fatto oggi, io me lo prendo tutto senza richiedere. Possono anche ritirarsi tutti gli altri a questo punto. No, non è vero. Però ecco, forse la grandezza di Tadej Pogacar è che forse non ha nemmeno bisogno di degli sparring partner, di degli avversari contro cui illuminarsi. Ma infatti gli hanno proprio chiesto in conferenza stampa se lui sentisse la nostalgia in qualche modo di questi dei suoi grandi avversari, quindi gli hanno detto non vedi l'ora di rincontrare Vingegaard, e lui ma ha detto sì, ci sarà tempo per quello, ma adesso sono appunto felice di fare la mia cosa, come direbbe il buon Frankie Energy, che salutiamo e ci ascolta sempre. Però ragazzi, io che probabilmente Tadej Pogacar ascolta, visti i suoi gusti musicali, esatto, ma io vorrei solo dirvi che ammetto che in questo finale di tappa, invece che rimanere insieme a voi nell'area stampa dove vedevo i numerini del distacco diminuire velocissimamente, io sono proprio andata sull'ultimo chilometro a vedere di persona, perché ho detto vabbè, ho avuto questa opportunità, non posso perderla, ed è stato pazzesco vedere quei ciuffetti da lontano, dall'alto, passare nell'ultima transenna con una voracia incredibile. Ma signora Marta, la voracia, voracità, adesso mi trovo io a correggere lei. Ma te l'ho detto che sono ancora un po' tutta sconvolta. No, anch'io, vedo la verità, perché non mi aspettavo questa scientificità nell'attacco di Pogacar, perché noi peraltro abbiamo fatto tutto il percorso di gara, da Malonno in poi circa, e abbiamo visto come il Foscagno sia in realtà una salita pedalabile. E prima del Passo d'Eira, il Passo d'Eira stesso è una salita, un passo piano lassù, no? Tra Foscagno e Eira, discesina, risalitina, tranquilla. Per cui il terreno era anche, diciamo, sfavorevole a un attacco di tali dimensioni. Quando, nel momento esatto in cui siamo cominciati a dire non è che Quintana arriva, non è che Steinhauser ce la fa, arriva dall'arrivo, Pogacar ha attaccato e, in modo veramente quasi matematico, è riuscito a riprendere tutti. Sì, e così voglio tornare sulla domanda che è stata fatta a Pogacar sull'assenza di Vingegaard. Lui ha detto, non ha detto che gli manca un avversario, a me un po' sì. A me manca qualcuno che possa mettere in difficoltà Pogacar, che possa stimolare, possa stimolarlo a fare ancora meglio, no? È bello contemplare la grandezza di un campione, che è quello che stiamo facendo in questo Giro d'Italia, ed è parte dell'esperienza di essere spettatori dello sport. Si contempla, si omaggia il grande campione, però lo sport è anche competizione, è anche confronto con un avversario, e a me personalmente io sento la mancanza di un avversario che possa spingere Pogacar ai suoi limiti, per quanto si spinga da solo poi ai suoi limiti, ed è quella la sua grandezza. Però mi manca, come dire, l'avversario in questo Giro d'Italia. Bene, detto delle mancanze di Leonardo, c'è invece qualcosa che manca costantemente alla nostra Marta Bacigalupo, che sono informazioni su Tadej Pogacar. Lei, come direbbe Marta Bacigalupo, è vorace di queste informazioni. Ma guardate, in realtà oggi avrei persino potuto non fare nulla, perché Tadej si è autopogacariato anche in conferenza stampa, ha raccontato l'espressione bellissima. Ti ringrazio, chiudiamola qui. Esatto, mentre io nasavo in giro andando a caccia di informazioni, lui in conferenza stampa gli hanno fatto la domanda, ha raccontato tutta la sua mattina, che cosa mangia di colazione, con precisione, proprio portata dopo portata, e io 40 lì, minuti, esatto, e io lì ho pensato che forse alla fine Michele Pelacci non è la persona che conosco che mangia di più al mondo la mattina, ma con tutte queste, anche con una dovizia di particolari, pane fatto in casa, di segale, omelette, waffle, tutta questa serie di cose. Ma io in realtà oggi, signori miei, ho per voi, per celebrare questa impresa, ho la notizia, lo scoop che cercavo dall'inizio di questa mia missione, cari miei. Oh. Sì, sì. Oggi si parla dei ciuffetti, cari miei. perché sappiamo, è la teoria anche del buon signor Kautz, ma un po' di tutti, che questi ciuffetti chiaramente sono le pinne che aiutano Taddei a vincere, giusto? Non è che lo aiutano a vincere, è che quando a Taddei si alza la pinna non ce n'è per nessuno. E quindi io sono andata a conoscere in realtà il fotografo della UAE, il fotografo che segue Taddei nella, diciamo, nel dopo corsa e che avremo modo di conoscere meglio nei prossimi giorni. Si chiama Lorenzo Fizzaverdinelli e appunto lui mi ha dato la risposta che stavo cercando. Sentite un po'. Qui, attenzione, potrebbe esserci il vero, verissimo scoop. Chi è che taglia i capelli di Taddei? In realtà il mio lavoro di fotografo e film era il secondo lavoro, perché il mio vero lavoro è tagliare i capelli ai ragazzi. A tutti, quindi? A tutti. Bravissimo, adesso quasi quasi potresti dare una sistemata anche a me. Penso che una delle prime foto iniziavo a cancellarli lì con Photoshop perché pensavo non gli piacessero. Poi gli ho chiesto, siccome era un lavoro in più che dovevo fare, ho detto, ma ti danno fastidio? Fa, no, mi piacciono. Allora ho un po' centrato l'attenzione sui suoi ciuffetti e sono diventati un po' il suo marchio. Signori, sei tu che hai scoperto i ciuffetti? No, non sono quello che li ha scoperti, però chiaramente lavorando con lui, soprattutto all'inizio, ero il primo che ho notato questa cosa, quindi non dico che li ho scoperti, però ci abbiamo giocato un po' all'inizio. Dunque, il nostro scoop ce lo siamo portato a casa anche quest'anno. È il secondo, se non sbaglio, ne avevamo uno sulla prima tappa sulle relazioni d'amore di Fausto Coppi. Coppi e Pogacar, una bella coppia, direi che siamo messi bene, no? Siamo messi decisamente bene. Io un po' meno, perché ho commesso un errore prima nel dirvi... No. Sì, capita. Errore di errore. Nel dirvi qual è il distacco questa sera di Antonio Tiberi dal terzo gradino del podio. Non è un minuto e mezzo, ma sono 2 minuti e mezzo che Antonio Tiberi ha da Dani Martinez e qualcosa di più da Garen Thomas. Che ha perso, cioè, questo minuto da quando tu hai letto la classifica prima ad adesso o era un errore? L'ha perso oggi negli ultimi chilometri, perché poi lui è andato in difficoltà proprio sul tratto finale che andava al Mottolino, quello con le pendenze incredibili. Abbiamo visto grande stanchezza, grande fatica, anche un po' di rassegnazione negli altri uomini di classifica. Non abbiamo visto rassegnazione nei fuggitivi, negli uomini tanti che oggi ci hanno provato da lontano a vincere questa tappa che non era storia, non era, come dire, possibile vincere viste le intenzioni della UAE e di Pogacar oggi, ma ci hanno provato. Noi abbiamo parlato con molti di loro all'arrivo. Cominciamo dal secondo classificato. Andiamo in ordine perché questa tappa forse non era storia dal punto di vista che non c'era storia, ma fa parte della storia di un corridore come Nairo Quintana, che non rivedevamo a questi livelli da parecchio tempo. E sentite le sue parole esausto all'arrivo. È un'etapa che mi gustava, molto desnivel. Per me è un gran logro, emozionante, digamos así, emozionante y... Sí, sabe muy bien, sabe rico y agradecer a mi equipo por todas las oportunidades, por ser mi equipo, por traerme nuevamente a casa. ¡Nairo! ¡Nairo! ¡Nairo! ¡Nairo! ¡Nairo! ¡Nairo! ¡Nairo! ¡Nairo! Allora, il fiatone è quello vero e la commozione è quella vera. Nairo era veramente colpito da questa giornata. Dice, era una tappa che mi piaceva con tanto dislivello. Per me è un grande risultato, emozionante. È stato emozionante e ha un sapore buono, ha un sapore ricco. Devo ringraziare la mia squadra per tutte le opportunità, per essere la mia squadra e per avermi riportato a casa, dice Nairo Quintana all'arrivo di questa tappa. E in chiusura, visto che erano lì di fronte, ho registrato un attimo anche i cori dei tifosi di Nairo, i tifosi colombiani che erano super calienti. E che dire, vedere Nairo Quintana, insomma, lo sappiamo che Quintana, la sua parabola da corridore che si giocherà i podi e le vittorie nei grandi giri, forse anche le grandi vittorie in generale, è conclusa, lo sappiamo, anche se non è così vecchio, ma insomma agonisticamente è così, il suo tempo è passato. Però dimostra che non è tornato per caso, non è tornato solo per uno sfizio, ma è tornato perché possiamo goderci probabilmente ancora per un po' un Quintana che ci fa divertire, che ci fa innamorare con quelle sue azioni che ci hanno sempre fatto innamorare nei suoi momenti di massima gloria, e che fa emozionare anche lui e con lui chiaramente tutti i suoi tifosi. E sapete qual è il seguito di Quintana tra chi gli è vicino, ma anche tra chi è ovviamente oltreoceano. Ha fatto innamorare anche, ma non troppo, Tadej Pogačar quando era piccolo, perché quando Quintana ha vinto il Giro 10 anni fa, Pogačar aveva 16 anni e lui ha detto: seguivo il Giro, il Tour, c'erano Froome e Quintana che lottavano uno contro l'altro, e lui non capiva perché Quintana non attaccasse presto o prima di quanto in realtà lui non facesse negli ultimi chilometri. Quindi c'è stato anche questo confronto generazionale oggi tra questi due corridori. Pogačar seguiva il ciclismo quando c'erano Quintana e Froome che si affrontavano e sperava che Quintana attaccasse di più. Anche noi lo speravamo all'epoca. Ma diciamo che appunto abbiamo sentito anche il ringraziamento proprio alla squadra, di cui poi forse vorrei parlare di più avanti, perché credo che ci sia davvero un bell'ambiente umano. Io l'altro giorno ai Pullman ho parlato con uno dei massaggiatori che lavora alla Movistar da 34 anni e gli ho chiesto un pochino, ho detto: ma come sta Nairo, come va? Lui mi ha detto: sta veramente bene, è in crescita continua. E peccato solo che sia arrivato al Giro direttamente dopo l'infortunio che ha avuto, quindi non ha fatto una vera preparazione, non ha potuto prepararsi come si deve, e a questo punto mi viene da dire: chissà se si fosse preparato davvero. Insomma, è stato bello rivederlo così. Sì, è stato molto bello. Su Quintana poi ci torneremo con una chicchetta in chiusura di puntata. Proseguiamo la classifica, l'ordine d'arrivo di tappa e anche dei fuggitivi, con una persona che invece ha fatto innamorare Leonardo Piccione, che sappiamo che ha mandato già anche il curriculum all'azienda metallurgica della famiglia Steinhauser. Alla, no? Steinhauser Metal Technic, no, non ho mandato il curriculum, però è stato coraggiosissimo oggi Georg Steinhauser, ragazzo del 2001, ha attaccato a 20 km all'arrivo, è arrivato ad avere un minuto di vantaggio su tutti gli altri fuggitivi e sembrava davvero a un certo punto che potesse farcela, finché poi Pogačar ha attaccato. Ci ho parlato, scusate, cosa importantissima. Quindi Steinhauser, abbiamo detto, ha lavorato ed è figlio di un ex corridore, Tobias Steinhauser. Tobias, che adesso gestisce questa acciaieria. In fuga con Steinhauser, tra gli altri, c'era Fabbro oggi. Non so se avete notato non questa sarà cosa. Un caso. Non sarà un caso che ci fosse Fabbro, ma... Acciaio di acciaio. Ma ho incontrato Georg Steinhauser assolutamente finito dopo la linea del traguardo e ho scambiato due parole con lui. Eccole. Georg, just two questions. Congratulations for a very brave ride. One word for this day, how would you define it? Unbelievable. It was an amazing day and I went so deep in on the last climb, and to finish third is something crazy. Have you ever experienced suffering like this before in your life? No, this last kilometer felt like 100 kilometers. It was so steep and it didn't take an end, and yeah, it was. I'm completely finished now. What did you think when you saw Pogačar coming behind you? What a man, what a performance. Unbelievable. Pizza tonight? Yes. Which one? Actually, burger tonight. Burger? Yeah, burger tonight. Well deserved, congratulations. Thank you. Dunque, Georg, congratulazioni per una gara coraggiosa. Come definisci in una parola questa giornata per te? Incredibile, ha detto lui, è stato un giorno fantastico. Sull'ultima salita ho dato fondo a tutto quello che avevo. Finire terzo in una giornata così è da pazzi, crazy, ha detto. Gli ho chiesto: hai mai sperimentato una sofferenza di questo tipo nella tua vita? Lui ha riso un pochino e ha detto no. L'ultimo chilometro sembravano 100 chilometri, era così pendente, non terminava mai. Io invece sono completamente finito. Ora, cosa hai pensato quando hai visto arrivare Pogačar alle tue spalle? E lui ha detto: what a man, che uomo, che performance, pazzesco, incredibile. Poi gli ho chiesto: stasera pizza? E lui ha detto sì, poi si è corretto: no, in realtà un hamburger. Quindi stasera un hamburger per Steinhauser, e gli ho detto: te lo sei meritato, bravo, complimenti. Tra l'altro questa salita di cui tutti stiamo parlando, il nostro amico Daniel Frive l'ha appena definita un tipo un crimine contro l'umanità, ed effettivamente io avrei fatto fatica anche a piedi. Sì, è ragionevole da tanti punti di vista. Posso confermare, essendo stato lì tanto sul rettilineo di arrivo, che oggi più di tante altre volte sono arrivati tutti, tutti stremati. E non tanto per quest'ultima salita, quanto perché penso che da quando le cose, le danze hanno iniziato ad accelerare, si sia fatto male a tanti. Ho sentito espressioni di chi arrivava dai suoi massaggiatori dire robe da matti, dire è illegale, vanno tutti come pazzi, insomma. Oggi ha fatto male, meno male che si riposano domani, meno male che ci riposiamo anche noi. Io all'arrivo, Filippo, ci siamo anche visti, no? In quella zona lì non era molto spazioso. Lassù in cima ho ascoltato un'intervista che abbiamo fatto assieme, faceva le domande Daniel Fribe, nostro amico del Cycling Podcast, ha chiesto ad Attila Walter, che abbiamo visto in fuga, se questa è stata la tappa più dura mai fatta in montagna. No, because I have been way more fucked in the past. So when you're feeling okay, then it's okay. I mean, it was super, super, especially the last part. When Poggi catch us, from that part on, it was massive pain everywhere. Especially this last 2K, this is insane. After so much climbing, oh, I think you could lose easily a minute in like 300 meters. It was really something. Probably a bit too much after such a long day, but I really had a good day. I could always focus on a good break, be patient, not working too much, and then always be in a good group. So yeah, I'm happy with how I rode today. And just quickly, finally, I think I heard you say to some of your team staff, you just wanted to see what it was like to try and follow Pogacar for a few hundred meters. Is that right? Yeah, I already skipped a few turns in the breakaway. Because we had Pigazzoli and Storer who had to go for their GC, so I was just at the back. I could catch a breath. Was also a bit of tailwind part, so I was already heard that Poggi is 1 minute behind. So I was already preparing myself that I want to see what that means. And then yeah, I don't know if a minute I could follow him. I had no doubts that I would drop. I just wanted to see, but it was something insane. Some people were I read on the social media that we have to see how Pogacar is on the high mountain days and with a lot of vertical meters. Yeah, I can tell you he's over 400 watts easy all the time, so he's pretty good still. Walter ha risposto no, perché mi sono sentito molto più fottuto in passato. Quando ti senti bene è tutto ok, anche se, specialmente quando Pogacar ci ha raggiunto, ho provato grande dolore ovunque. Negli ultimi 2 chilometri ho pensato, cavolo, tutto questo è assurdo. Dopo così tanta salita, wow, sulla rampa finale ho pensato, si può perdere un minuto in 200 metri. È stato forse troppo, ma ho avuto una buona giornata. Non ho lavorato troppo e sono contento di come sono andato. Poi un'altra domanda di Fribe, che gli ha chiesto di come sia stato provare a stare a ruota di Pogacar per qualche metro. Walter ha risposto, avevo saltato un po' di turni davanti in fuga perché con noi c'erano Stoller e Piganzoli, interessati alla classifica generale. Quindi ero sulle ruote e c'era un po' di vento a favore. Mi hanno detto che Poggi era ad un minuto da noi e stava recuperando, per cui ero preparato. Volevo vedere cosa significa stargli a ruota. Non sapevo se sarei riuscito a stargli a ruota manco per un minuto. Sapevo che mi avrebbe staccato, ma comunque volevo vedere. È stato qualcosa di assurdo. Leggevo critiche sui social, vedremo Pogacar come andrà nelle tappe di alta montagna. Posso garantirvi che è sempre sopra i 400 watt, agilmente. Quindi sì, direi che è in forma. Al che Marta, in conferenza stampa, perdonami, poi interrompo questo segmento lungo, al che ho riportato le parole di Attila Walter a Pogacar e la sua risposta mi ha colpito particolarmente perché aveva un sorriso molto divertito ai limiti, secondo me, della perfidia. Perché diceva Pogacar, quando ho preso Walter, sapevo che qualcuno, e qua già sorrisone, ci avrebbe provato a venirmi dietro. Ma sai come funziona? Quando trovi sul percorso altra gente, e qua altro sorrisone, ci dai sempre un po' più dentro. Mi è sembrato quindi Pogacar non solo felice di aver recuperato sulla fuga, non solo magari voleva giustificare il vattaggio rimasto stampato in faccia a Walter, ma anche un po' felice perché questa cosa qui l'ha fatta a un Visma. Il Visma che, e poi ho veramente finito, Gomblotto! No, il Visma che ha scritto poi su Instagram, Attila Walter, 2 secondi fa, I'm gone, I'm dead. Parole che aveva usato Pogacar nel famoso audio sul gol della Loz, no? In cui perse molti minuti da Vingegaard. Per cui c'è una trama, no? Una storiella qui tra Vingegaard e Walter. Inquietudini rosa. Invece, signori miei, nella fuga questa mattina, nella prima parte della fuga, c'era mezza FDG, tra cui il nostro caro Laurence Pitti. Laurence Pitti, a cui ieri sera al termine della crono avevo chiesto appunto come avrebbe affrontato, come pensava di affrontare queste montagne. Ecco che cosa ci aveva risposto. Hi Laurence, how are you facing the next week with the mountains? Oh, we just have to take it day by day. Hopefully there'll be some nice gruppettos I can be in and yeah, try and make some friends instead of enemies like we do in the sprints. Do you like Italy? Yeah, it's very nice. It's I've never really raced much in Italy or ridden here, so it's cool to see the scenery and the beautiful mountains around here. So we will wait for you. Good luck. Thank you. Ciao Laurence, come affronterai la prossima settimana con le montagne? E lui ha risposto: dovrò solo andare avanti giorno dopo giorno, spero ci sia un bel gruppetto, nel quale posso stare e cercare di farmi un po' di amici invece che nemici come facciamo negli sprint. Gli ho chiesto poi se gli piacesse l'Italia. Sì, è molto bella, non ho mai veramente corso tanto in Italia ed è figo vedere i paesaggi e le montagne. E allora gli ho detto che lo avremmo aspettato ancora in Italia e gli ho augurato buona fortuna. Ecco, quest'idea di riposarsi nel gruppetto mi sa che non ha trovato gente troppo simpatica, no, allora. Forse ha pensato che stesse partendo il gruppetto, c'era anche Iwan, poteva essere il gruppetto quella prima fuga in effetti, per cui forse l'abbiamo letta in maniera sbagliata, forse non è un corridore ancora molto giovane, non ha ancora capito esattamente come funziona il gruppetto, che non è un gruppo all'attacco. Ad ogni modo, io mi auguro comunque amici se li sia fatti comunque oggi. Era una fuga bella numerosa, dai. Qualche amico, magari qualcuno che parla la sua stessa lingua, non so. Può essere, tanto in tanti parlano la sua stessa lingua. Chi non è andato in fuga è arrivato non nel gruppetto ultimo, è arrivato comunque 120esimo a 46 minuti da Pogačar, che non è male se pensate che colui di cui sto per parlare pesa 90 kg, è Max Walscheid della Jaico Alula. Che tra l'altro è il peso che raggiungerò io se continuiamo l'alimentazione tipo di questo Giro d'Italia. Che corriamo un po' tutti al giro. Ho voluto aspettare Walscheid sulla linea d'arrivo perché insomma in queste giornate, con questo dislivello, con queste pendenze, per i corridori come lui, insomma, la fatica è ancora maggiore. Max, congratulations, because for a guy like you, today is like defying gravity. Yeah, it was a pretty hard day, but luckily it went okay. And on the long climbs I'm actually not so bad. I have a good threshold power and then I managed okay. It was pretty hard, but it was okay. Mentally, how do you prepare and how do you face a day like this? Well, I don't think so much about it, to be honest. I mean, I anyway can't change it and I just do it. Bravo, congratulations. Thank Have you. A good rest. Thank you. E gli ho detto congratulazioni Max, perché per uno come te oggi è come aver sconfitto la gravità. E lui ha detto oh, sì, è stato un giorno complicato, fortunatamente però sulle salite lunghe io non vado così male, ho un buon ritmo, mi sono gestito bene, è stata dura ma ok tutto sommato. Gli ho chiesto come si affronta mentalmente una giornata così e lui ha detto non ci penso in realtà, perché comunque non posso cambiare le cose e quindi io lo faccio e basta, vado e via. Gli ho augurato buon riposo come si fa in queste situazioni e ci siamo salutati. Ultimo corridore con cui abbiamo parlato oggi, che vogliamo presentarvi oggi in realtà perché faceva parte della fuga, è un corridore della Cofidis, inglese, britannico, si chiama Harrison Wood, faceva parte anche lui della fuga numerosissima del mattino. L'abbiamo incontrato prima che partisse la fuga, non all'arrivo, ci abbiamo fatto due chiacchiere e questa è la prima parte dell'intervista a Harrison Wood della Cofidis. So, good morning Harrison, how are you? Yeah, good, thank you much. Yeah, looking forward to today, looking forward to the hard stage, I think. Second week of your first Grand Tour. Can you name the most important thing you have learned until now in this Giro? Probably, like to try and save your legs when possible, you know, like if you you drop, then you just ride easy gruppetto or find a good pace to finish, you know, not that you finish every stage completely destroyed, because the next day it will pay, you'll end up paying the ticket basically. And then yeah, just everything, focus on recovery after the stage, eating well, drinking well and sleeping well has been definitely important, I think. E allora, avete sentito, gli ho chiesto buongiorno, come stai Harrison? E lui ha risposto bene, grazie, non vedo l'ora che inizi questa tappa, penso che sarà una tappa difficile. E in effetti è stato così. Seconda settimana, gli ho chiesto del tuo primo grande giro, lui è del 2000, 23 anni. Puoi dirmi qual è la cosa più importante che hai imparato finora? E lui ha detto probabilmente provare a salvare le gambe ogni volta che ce n'è l'occasione. Quindi se ti stacchi, cercare subito il gruppetto, oppure andare col tuo passo senza finire ogni tappa distrutto. Altrimenti il giorno dopo paghi il biglietto, ha usato questa espressione lui. E poi prestare attenzione al recupero dopo ogni tappa, mangiare bene, bere bene, dormire bene, tutte queste cose sono stare importanti. Bene calmo e non strappare bene. Who is your teacher in this team? Oh, that's a good question. Simon Geschke, who I'm with in a room as well, so that's nice learning from him on the race, and yeah, all the guys have been really helpful with some small advice and stuff like that, and also a few guys from other teams, British guys as well, that I've spoken to have been giving some good information and stuff like that, so that's been nice. You have won as a team a stage in this Giro. It was like a masterpiece from Ben of tactical thinking. What have you talked with him after that stage, and do you think you can do something similar in the future? We discussed it after. It was pretty insane what he did, you know. It was very clever, and I think, yeah, like as he said as well, you know, you've got to have some luck as well with cycling. So I think, yeah, we're going to try our thing. You know, we're not scared. And as a team, we've got good confidence, and now looking forward to the next week and then into the third week as well. So it should be good. Gli ho chiesto chi è il tuo insegnante in questa squadra, nella Cofidis. Lui ha risposto, buona domanda. Poi ha detto Simon Geschke, che è anche il mio compagno di camera ed è stato anche lui suo compagno di fuga oggi. È bello imparare da lui cose nuove sulla corsa, è estremamente utile quando mi dà piccoli suggerimenti e cose del genere. Poi anche altri compagni mi aiutano e altri corridori britannici nel gruppo mi danno informazioni su com'è un grande giro, perché questo è il suo primo grande giro. E tutto questo è molto bello. Gli ho chiesto, avete vinto una tappa come squadra in questo giro, il capolavoro tattico di Benjamin Thomas. Credi di essere in grado un giorno di ripetere qualcosa di simile? E lui ha detto, sì, dopo la tappa ho parlato molto con Ben, è incredibile quello che ha fatto in quell'occasione, è stato super intelligente e, come ha detto lui, anche un po' fortunato. Ci riproveremo sicuramente, come squadra abbiamo fiducia in questo momento, l'abbiamo visto anche nelle volate con il loro velocista Stanislaw Aniołkowski, e vedremo cosa potremo fare nella terza settimana. Dovremmo cavarcela, ha detto Wood. Infine gli ho chiesto com'è cominciato il suo love affair col ciclismo. Yes, good question. I played, actually it was more football when I was younger. Started off playing football, and then my football team that I played with stopped. Which was that? Torquay United, they were called, a team where I live basically in England. And then, I sort of just was not really doing much and sort of doing a bit of cycling here and there and enjoying it. And so I then started racing, but I had to focus more on my exams. But then after, when I first went to Europe when I was 17, I really fell in love with cycling and racing. So, yeah, for me, it's the dream. What exams did you mention? Just school exams, basically. I had to focus on that. My parents were quite, said I needed to do good exams, so I couldn't do as many races and stuff like this. So I did my physical education exam, geography, economics, English and stuff like this. So it's, at least I have some backup options. Grazie mille, good luck for the rest of your giro. Grazie. E lui ha detto, buona domanda, bella domanda. In realtà io ho cominciato col calcio quando ero un ragazzino, poi il settore giovanile della mia squadra ha chiuso i battenti, non è andato avanti. Gli ho chiesto quale squadra fosse, era il Torquay United, che è la squadra di calcio della sua città in Inghilterra. Poi ho cominciato ad andare in bici, ha continuato lui, mi divertivo, ho fatto le prime gare. Però all'epoca comunque avevo gli esami a scuola e quando a 17 anni mi sono trasferito in Europa è allora che mi sono potuto concentrare completamente sul ciclismo, che per me è un sogno. Gli ho chiesto a quali esami si riferisse e lui ha detto no, i normali esami della scuola superiore. I miei genitori volevano che andassi bene a scuola per consentirmi di andare alle gare di ciclismo. Quindi sì, ha citato educazione fisica, geografia, economia, inglese e così via. Diciamo che nel caso ho anche delle opzioni alternative se non dovesse andare troppo bene col ciclismo, ma l'ha detto scherzando. Harrison Wood. Bene, quindi ringraziamo Harrison Wood, la tigre di Torquay, ricordiamo il suo soprannome che gli abbiamo affibbiato. Quando? Non so se adesso? In auto oggi. Ah, ok. Però ci sta bene, perché Tiger Wood. Sì. Bisogna andare a chiedere, andare a fare un'altra intervista con Harrison Wood per chiarire il suo soprannome. E non c'ho più fiato, abbiamo parlato troppo, ascoltiamo qualcosa. Sei un appassionato di ciclismo? Sei un pedalatore della pedante domenica? Ti hanno regalato una bicicletta, anche se avevi chiesto dei binocoli? Allora anche tu hai bisogno del Bincio! Bincio! Il Bincio? Ma che cos'è? Il Bincio! È un sistema sofisticato che si collega alla tua bici e ti permette di vincere su tutti! E da oggi c'è una grandissima novità in casa Bincio! Il Bincio Fantasma! Bincio! Il Bincio Fantasma? Più leggero, più pratico, più discreto! E non lo vedi! Come non lo vedo? Il Bincio Fantasma è proprio fantasma! Non vedendolo si adatta a tutti i colori della tua bicicletta, a tutte le forme, a tutte le tue esigenze e non ha alcun peso! Bincio! Ma se non lo vedo come faccio a capire che l'ho comprato? Facile! Te ne accorgi dal conto in banca! Apri la scatola e si installa da solo! Tu devi solo pedalare e il Bincio Fantasma vince per te! Bincio! Costa il doppio di un bincio normale, ma ne vale la pena! Non perdere sempre! Vinci, vinci, vinci con noi! Vinci con il Bincio! Bincio, Bincio! Oh, non si ferma mai la Bincio Incorporated. Ogni settimana un nuovo prodotto da lanciare sul mercato. Ma sempre più avveniristico. Una produzione pazzesca. Ma poi oggi, a un al traguardo volante, c'era una ragazza vestita da fantasma. Forse stava facendo la promozione di questo nuovo modello di Bincio. O forse cercava i suoi binocoli. Aveva ordinato i binocoli e gli è arrivata una bicicletta, come diceva. Chissà, tra l'altro sono anche due pacchetti molto diversi. Si capisce subito dal regalo che non è un binocolo. È un binocolo, vabbè. C'è da dire che non si capisce se quella bicicletta è dotata di Bincio Fantasma o meno. Quello non si può, cioè, non si capirà dire, guardando il conto in banca di quello che ha fatto il regalo. Ad ogni modo, noi andiamo avanti, proseguiamo, vi facciamo sentire qualcosa che riguarda gli incontri che abbiamo fatto oggi più che lungo la strada, nel luogo soltanto nel luogo d'arrivo, perché lì ci siamo concentrati nella nostra giornata, e Marta ha girato un po' e ha fatto un po' di incontri particolari, io me ne sono andato un po' su per la neve a fare delle riflessioni che condividerò con voi con l'aiuto di qualche amico locale. Ma qui c'è un fan club ufficiale? Ufficiale, sì, ufficiale. Ufficioso, dai. Ufficioso è il nostro. Beh, le maglie sono notevoli. Familiari. Siamo un bel gruppetto in giro, sì, un po' dispersi, dai. Ma ci siamo, sì. Siete... chi siete? Siamo i genitori di Piganzoli. Eccoli! Eccoli! Allora, siete pronti? Siete emozionati? Sì, grazie. Sì, sì. Com'era da piccolo questo ragazzo? Correva già? No, beh, non andava così forte. Assolutamente, non viaggiava tanto, non è che... Però si è mai mollato, non ha mai mollato. Non ha mai mollato e... È arrivato qua. Ha sempre avuto test e è qua. Vediamo cosa fa. Vediamo il suo primo giro, sembra che sta andando bene. Speriamo l'ultima settimana si bene. Conferma. Allora in bocca al lupo, vogliamo un urlo da tutti. Certo. Figa! Ecco, c'è un po' di fiatone perché ho dovuto scarpinare un pochino, non sono abituato. Siamo a Mottolino, qui intorno stanno passando i mezzi di appoggio delle squadre. parte di questa strada sterrata è stata asfaltata apposta, è stato portato a una lingua d'asfalto in alta montagna in nome dello sport, di uno sport assolutamente pulito e genuino come il ciclismo. Oggi arriviamo da una giornata in cui abbiamo visto veramente migliaia di persone in bicicletta sulle strade. In nome di questo sport si va a intaccare con delle attività fortemente invasive. Basta essere qua in alto e guardarsi intorno per comprendere quanto la natura sia maestosa qui intorno, ma anche quanto sia attaccata dalle attività dell'uomo. Ho dovuto scarpinare un po' anche per allontanarmi dal solito frastuono di musica discutibile ad alto volume e anche per allontanarmi da un viavai di elicotteri, di persone che usano questo servizio taxi per arrivare a una cima, peraltro perfettamente collegata con degli impianti di risalita. Tutta questa introduzione l'ho fatta con il fiatone perché qui a breve succederà qualcosa. Quel qualcosa sono i Giochi Olimpici del 2026 che nominalmente sono stati assegnati a Cortina, con le attività invece più da palazzetto che invece in parte si svolgeranno a Milano. E le Olimpiadi arriveranno anche qui, arriveranno con l'idea di trasportare una marea di gente in alta montagna. E quando si parla di Olimpiadi spesso si pensa alle grandi città, no? dove le Olimpiadi hanno un impatto che ben conosciamo, che è un impatto che potremmo definire di estrattivismo sociale, ma in realtà le Olimpiadi, soprattutto quelle invernali, vanno in centri minuscoli e incidono con opere di grandi e piccole dimensioni su questi centri. Ecco, io oggi avrei voluto far parlare delle persone di Livigno, dell'Alta Valtellina, della Val di Dentro, insomma di queste zone dove ci troviamo. Purtroppo la logistica di questa tappa non era così semplice per riuscire a fermarci e incontrare qualcuno sul territorio, però abbiamo chiesto un contributo. Arrivano da Barbara e da Angelo, che sono due persone che abitano in questi territori della Valtellina, e ci raccontano quello che comporta l'arrivo delle Olimpiadi in Valtellina e quello che si sta muovendo nel popolo locale per rispondere a questa presenza incombente. Sono Barbara Silvestri, sono stata consigliere nel comune di Livigno sino al 2016. Le Olimpiadi portano molti soldi, troppi a mio parere. Questo alimenta, diciamo, logiche economiche e faccendiere che poco hanno a che fare con lo spirito di queste Olimpiadi, che dovevano essere all'insegna della sostenibilità ambientale. Nuovi impianti significa anche naturalmente nuove piste e quindi disboscamento, significa anche nuove deroghe su attività. Con la scusa delle Olimpiadi si sono sdoganate, si stanno sdoganando molte deroghe, molti ampliamenti. E questo ci dice che l'ambiente è del tutto concepito un po' come strumentale. Sono Angelo Costanzo e rappresento un piccolo centro culturale di Sondrio dal nome Oltremuri, che si occupa da tempo del tema della sostenibilità, dello sviluppo economico, sociale e culturale delle terre alte. Vorrei subito affermare che non siamo contrari alle Olimpiadi. Le Olimpiadi rappresentano il punto più alto della competizione sportiva e dei valori fratellanza e solidarietà tra i popoli. Il discrimine è cosa sono diventate le Olimpiadi, una voragine di spesa pubblica e di opere calate nei territori montani senza nessuna valutazione di impatto ambientale. Così le Olimpiadi, nate su un dossier di candidatura green e a costo zero, diventano una grande voragine di spesa pubblica e di opere calate nei territori montani senza nessuna valutazione dell'impatto ambientale. La nuova cabinovia Bormio, la realizzazione di uno ski stadium a circa 1200 metri e nuovi parcheggi a Bormio Livigno per accogliere sempre maggiori flussi di traffico. Le risorse per gli impianti di innevamento artificiale. Ebbene, queste opere non tengono in nessuna considerazione i cambiamenti climatici e la necessità di riconvertire gradualmente un'economia che ha basato nel passato il suo sviluppo nella monocultura dello sci di massa. I finanziamenti riguardano anche opere necessarie al miglioramento della viabilità, ma che non possono essere realizzate senza preoccuparsi dell'impatto sui territori e le popolazioni locali. Di base c'è un problema culturale, profondo, ed è il rapporto tra economia delle terre alte, la sua sostenibilità nel rapporto con l'ambiente e la natura. Comunque la Piganzoli Family, che salutiamo, era veramente adorabile perché erano molto emozionati e molto poco abituati, credo, a essere, cioè, sotto i riflettori in qualche modo. Infatti molto timidamente, appunto, erano contenti e speranzosi sulla prestazione del loro Beniamino, che insomma oggi ha fatto un grande lavoro, poi alla fine è arrivato al traguardo sedicesimo E comunque con questa prestazione di oggi si è mangiato un pezzettino ed è arrivato, ha guadagnato 3 posizioni, quindi ora è 13° in generale. Posso dire una cosa che non c'entra niente su Piganzoli, che mi ricorda, è un aneddoto mio, esclusivamente mio, probabilmente non gliene frega niente a nessuno, però al primo giorno di Giro d'Italia, siccome lo volevo intervistare, ho scritto a un amico che avevo in rubrica, è un amico, una persona che conosco, che avevo in rubrica come Davide Piganzoli, chiedendogli, ma il Davide Piganzoli corridore con cui condividi una perfetta omonimia, è un tuo parente per caso? E lui mi ha risposto, no, io mi chiamo Davide Peverali e non ho nessuna parentela con Davide Piganzoli. Per cui state attenti a come salvate i vostri nomi in rubrica e salutiamo Davide e tutti gli amici del Vigorelli. E state attenti anche a come pronunciate le parole nelle lingue straniere, perché bisogna applicarsi, impararle quando si vuole, ecco, esprimersi correttamente. Noi in questa edizione di Gironimo abbiamo un insegnante d'eccezione, come saprete, da Sendai. Ascoltiamo il nostro sensei che ci introduce, ci spiega, a uno di noi nello specifico, la parola di oggi. La parola del giorno. 今日の 一言. Salita. Nobori. Nobori. Discesa, kudari, kudari. E giustamente il sensei, che è saggio, sa che nel mondo ci sono più salite o più discese. Penso in egual misura. In egual misura, perché dipende da che direzione la fai, per cui quando ti così irraggia saggezza, tanto vale impararle entrambe, no? Esattamente, e sono pronto a ripetertele. Sei pronto a ripeterle già così? Già così. Vai, salita. Novori. Sembra una merendina. Discesa. Curari. Velodromo. Oh, boia, boia. Allora, vediamo di risalire. Dai, era la più facile di tutte, ti ho chiesto. Velodromo. Ah, pista. Bravissimo. Fuga. Questa è molto difficile. Era tipo Iline. Va bene, non lo so, non me lo ricordo neanche io. Comunque sei stato bravo. Sei stato bravo, apprezzo che ti prendi sempre appunti. Sei uno studente modello, Pelacci, guarda. Non l'avrei mai detto. Poi bisogna prepararsi dopo, cioè prendi gli appunti, poi devi studiarli. Ma insomma, avrai tempo. Domani c'è il giorno di riposo, non vai in bicicletta e stai a studiare giapponese. Domani c'è il giorno di riposo, noi non andremo in onda, non ci sarà un episodio di Gironimo, per questo ve lo facciamo un po' più corposo oggi. Con pieno più, di voci. Pieno di voci, di corridori diversi. Adesso ve ne facciamo ascoltare altri due con cui abbiamo parlato al mattino. E si tratta di due corridori con cui parliamo spesso. Mikkel Honoré, della Education First, e Filippo Zana, della Jaico Alula. Cominciamo da Honoré, anche perché lui è protagonista di queste interviste, come le abbiamo chiamate? Di Sant'Antonio. Di Sant'Antonio, cioè chiediamo all'intervistato di suggerirci chi intervistare la volta successiva. Honoré era stato suggerito da Magnus Sheffield della Ineos. Ascoltiamo l'intervista a Honoré in cui ci dice con chi parlare la prossima volta. E poi ci sarà anche l'incontro con Filippo Zana. Mikkel Honoré, finalmente dopo Fossano ti riusciamo a parlare di nuovo, come stai? Sto bene, abbastanza bene sotto queste condizioni della mia caduta alla quarta tappa, che comunque ho sempre male da lì, però mentalmente sto bene e sembra bello correre qui al Giro. Ovviamente è difficile saperlo stare bene e essere, cioè, in grande forma che penso ce l'ho, e non riuscire a andare al 100% dopo una frattura e la tappa in Liguria. Alla fine l'alternativa cos'è? Andare a casa e non puoi fare niente per una frattura del genere, quindi provo a dare il massimo e ottenere quei obiettivi e ambizioni che noi abbiamo qui a questo Giro, di vincere una tappa. Senti, percentuale, secondo te quanto ti toglie questo problema che hai? Si toglie, diciamo, secondo me almeno un 10-20%, perché non riesco a respirare bene senza dolori, e soprattutto quello che è peggio è il recupero, perché di notte non dormo molto bene per dolori sulla costola, sulla schiena. Abbiamo saputo che hai richiesto della cioccolata per l'ultima settimana, volevo sapere intanto se è arrivata a destinazione. Sì, è arrivata, ora arriva l'ultima settimana, che sappiamo sempre molto dura qui, e è importante caricare bene con buono cioccolato. Dici, che cioccolata è, come è fatta? Con le nocciole, senza? Con nocciole, sì, da nocciole, biologico, molto molto buono, molto sano, ma molto denso era quello. E ti abbiamo visto anche una foto metterti una boccetta di olio extravergine sotto la maglia all'arrivo, dov'era? In Campania? In Campania, a Molinara, vicino a Benevento. Sì, ho conosciuto Rocco al mio primo Giro d'Italia 2019, e da lì in poi siamo sempre rimasti in contatto, e infatti l'ho sempre promesso di passare su a sue terre e vedere tutto bene, perché lui lo fa veramente un olio buonissimo, e siccome sai che sono appassionato un po' del olio di oliva. Dove lo usi quest'olio? Su tutto, soprattutto la pasta, il riso, il pane, dal mattino alla sera. L'altro giorno abbiamo parlato con Magnus Sheffield e abbiamo chiesto, secondo te, con chi dobbiamo andare a parlare la prossima volta? E lui ha suggerito, andate a parlare con Michel Honoré, senza sapere che noi ti conoscevamo già. Come ti senti dopo 5 anni a essere anche un riferimento per i tuoi colleghi più giovani, no? Suggeriscono te come persona con cui parlare. Oh, sono molto contento di quello. Magnus è un bravissimo ragazzo, e niente, no, sono contento di quello almeno. È strano, perché a 27-28 anni oggi nel questo ciclismo inizi già a sentirti vecchio, mentre i miei primi anni, quelli vecchi, erano 35, no? Quindi va molto veloce ultimi anni, e ci sono grossi cambiamenti in tutto, e niente, apprezzo molto quello che tra almeno i giovani colleghi di me, sai, sono rispettato, no? Con chi dobbiamo parlare prossima volta? Suggeriscici qualcuno non della tua squadra. Allora, qualsiasi nazionalità o italiano? Qualsiasi nazionalità. Allora, fammi pensare, no, non dico, sai chi, questo che passa qua, Matteo Trentin, mi stavo venendo in mente e poi passa pure, Matteo, penso anche lui, uno molto esperienza in questo ciclismo, e una persona sempre con qualcosa anche molto importante a dire, e un corridore, cioè, per me, come a mia età, lui è una grande ispirazione, perché lui comunque ha fatto carriera doppio più di me, e sempre comunque davanti, quello secondo me è molto bello vedere per me. Grazie mille, buon riposo e in bocca al lupo per le prossime tappe. Grazie mille. Pippo Zana, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene, bene, dai. Ti vedo molto sorridente stamattina. Hai dormito bene? Sì, no, dai. Bisogna. Partiamo con il sorriso e poi vedremo. Senti, io come sempre ti cerco per parlare di animali, non di ciclismo. Innanzitutto volevo sapere come stanno Vior, Zoldo e tutti gli altri. Ma da casa dicono bene, quindi in teoria è tutto a posto. Quindi spero bene, dai. Ma ti mandano le foto? Sì, sì, mi mandano le foto, mi mandano ogni giorno, mi aggiornano di come stanno, quindi dai, sono contento. Allora, tu hai Zoldo, hai la Puglietta, chiami gli animali in nome di luoghi dove vinci. C'è un luogo di questo Giro d'Italia che già abbini idealmente a un animale? Ma dai, diciamo che non c'è ancora un luogo in cui abbino un animale, però dai, speriamo che ci sarà. Ma non c'è o non me lo dici? questa è una bella domanda, però dai, per ora vediamo di andare bene ogni giorno, quindi vedremo. L'altra cosa riguardo agli animali in questo giro è tutto un discorso di soprannomi, ci sono tori, leoni e tutto quanto. Mi dici che animale è Pogacar? un UFO. E il tuo compagno di stanza Alessandro De Marchi? Un animale molto intelligente, che tipo, non so, Ma anche il cavallo è molto intelligente, quindi anche dai. Mi ha detto il Dema che negli ultimi mesi ha passato più tempo in stanza con te che con sua moglie, tra ritiri e corse. Avete gli stessi litigi un po' tra moglie e marito, come Sandra e Raimondo? No, dai, diciamo che per ora sta andando bene, dai. Sicuramente è vero quello che ha detto, perché stiamo passando molto tempo insieme, però dai, bello così, ci troviamo bene, quindi passa bene. Non si litiga per chi va in bagno per primo, per chi fa la doccia, queste cose qua, avete la routine. Esatto, abbiamo la routine ormai, siamo abituati e quindi abbiamo il nostro equilibrio. Dentifricio condiviso, ognuno il suo. Ognuno il suo. Grande, grazie mille, buona tappa. Grazie, grazie. Pippo Zana lo sono andato a cercare anche perché avrei voluto parlargli un po' di più di Alessandro De Marchi, poi purtroppo i tempi erano quelli che erano e abbiamo dovuto comprimere, ma come avete capito sono felicissimi compagni di stanza e oggi avrei voluto sapere come avrebbe festeggiato il compleanno del nostro amico Alessandro, a cui sono corso a fare gli auguri a fine tappa. In realtà lui ha un po' ripreso fiato e la prima cosa che ha fatto, prima ancora di bere, è stata girarsi verso il suo addetto stampa, Jeffer Pizzorni, altro nostro amico che salutiamo sempre, per chiedergli l'aggiornamento, per chiedergli com'era andata la classifica, come erano andati Plapp e Zana, che sono i due uomini di classifica della squadra, anche rispetto alla maglia bianca. Insomma, nonostante la gran fatica, come sentirete tra poco, era sul pezzo. Sì, infatti eravamo vicini a Jeffrey ed era super emozionato per Zana. Diceva, è proprio un bel corridore, cioè, guarda, è bene, era contento che si stesse difendendo, che... ed era anche un po' in apprensione, quindi mi ha fatto molta tenerezza, è stato un momento molto paterno. Zana, che ricordiamo è ottavo in classifica generale, sta facendo un giro molto diverso da quello dell'anno scorso, in cui era sempre all'attacco e vinse poi una tappa molto bella In montagna proprio, e un altro tipo di approccio. Sta facendo classifica e ottavo, sta andando bene. Ascoltiamo adesso però il suo compagno di stanza, amico Alessandro De Marchi, che oggi ha compiuto 38 anni. Ah, volevamo semplicemente registrarti gli auguri di compleanno. Grazie. Compleanno in fuga alla De Marchi. Sì, però oggi qualcosina forse mi mancava, ahimè, non ero perfetto, o meglio, c'era qualcuno più forte come sempre, e su Mortirolo ho patito come un cane, e poi l'importante era comunque rimanere là per dare una mano al buon Pippo, che secondo me sta facendo molto bene, e niente, adesso bisogna riempire la gamba, stasera mi concedo una bella bottiglia di vino. Che vino? Sarà un bel rosso, adesso vediamo in hotel cosa c'è, ma sono sicuro che qua lì vigno qualcosa di buono lo trovo. E basta, domani vediamo cosa fare. E poi martedì, insomma, bisogna riuscire a ripartire con le gambe belle piene. Sarà un'altra bella giornata. E niente, avrei voluto farmi un regalino migliore strada facendo oggi, però questo è, dai. Vabbè, ti festeggeranno i compagni di squadra stasera, dai. Sì, no, questo sicuro. È già un paio di giorni che abbiamo notato che il compleanno cadeva nel giorno migliore, nella sera migliore, con il giorno di riposo dopo. Bene, buona festa allora. Grazie mille. Ciao Dema, auguri. Ciao. Ancora. Bene, che ore si sono fatte? Facciamo in tempo ad andare all'hotel della Jaico a questo punto a partecipare a questa festa? Credo che sia un record comunque, perché oggi abbiamo avuto tre corridori della stessa squadra ospiti della stessa puntata di Gironi. Ma mai successo prima? Mai successo, c'è sempre una prima volta, in alcuni casi c'è anche una seconda volta, la seconda volta è il secondo giorno di riposo domani, ma ahimè, dopo questo giorno di riposo il Giro d'Italia ripartirà con una tappa che in pochissimissimi secondi ci introdurrà il nostro stimatissimo pozzo di scienza parmense, Michele Florindo Gutierrez Pelacci. 207 chilometri da Livigno a Montepana, si torna indietro fondamentalmente, perché si percorrono al contrario Passo d'Eira, Passo del Foscagno. All'indietro, cioè devono pedalare all'indietro? Sarebbe una bellissima competizione, sai? Esisterà sicuramente. Non è questo il programma. Hai dei favoriti, Marta? No, è una di quelle cose hipster sicuramente, la pedalata all'indietro a scatto fisso anche, un po' da EF. Ecco, non potranno pedalare all'indietro quando attaccano il passo del Giogo di Santa Maria, diciamo, lo Stelvio un po' più basso, l'Umrail Pass, che porta la corsa per breve tempo in Svizzera, è la cima Coppi di questo Giro d'Italia, lunghissimo fondovalle fino a Bolzano, e poi i 35 km finali tornano ad essere all'insù, perché da Prato all'Isarco si affronta il passo di Pinei, un prima categoria, e poi il finale appunto sul Monte Pana. Sul Monte Pana, che è tra parentesi però, perché l'arrivo, e io non vedo l'ora che arrivi l'acrostico per la prossima tappa, è a St. Punto, non so se i punti si possono usare negli acrostici, Cristina con l'H in Gröden, con anche la dieresi, devi usarla la dieresi, no, nell'apostrofo, no, no, no, un userai attimo, una O. Io userò la versione italiana di questa località che esiste e quindi dovrebbe essere autarchico. Chiederò alla commissione degli acrostici, che ha una federazione internazionale, come ci si comporta in questi casi, vedremo. Bene. Un giorno per inoltrare, esatto, la richiesta. Hai tutta la giornata di domani per pensarci, abbiamo tutta la giornata di domani per riposare, per studiare giapponese, per fare un sacco di altre cose. Non so, Marta, hai già dei programmi per la giornata di domani? Io sicuramente leggo la newsletter, sperando che Pelacci non usi la solita scusa per farmi sgobbare al suo posto, ma siccome... Che scusa usa per farti sgobbare al suo posto? Devo scrivere il pezzo per la newsletter, okay, domani mattina, che Aleutiri si alza presto, questa solita cosa. Sicuramente mi leggerò tutti gli aggiornamenti sui social di Alvento, di Bidon, anche di Shimano, che sta pubblicando le parole del sensei. Darò un'occhiata a tutto quello che mi sono persa nei gruppi Telegram e poi forse anche basta, ce n'è abbastanza. Sì, direi che ce n'è a sufficienza per una singola giornata. Restano comunque attivi anche nel giorno di riposo tutti i nostri canali, piattaforme, eccetera, Twitter, Facebook, Telegram, dove siete benvenuti se volete iscrivervi, e se già ci siete fateci sapere come sta andando questa stagione di Gironimo, se avete dei consigli per l'ultima settimana, cosa possiamo fare, con chi possiamo parlare, visto che la corsa dal punto di vista, come dire, della competizione per la maglia rosa non è che abbia tanto ormai da dire, quindi aiutateci anche e dateci consigli su cosa potremmo... Come possiamo raggiungere Mauro Vegni per chiedergli di aggiungere altri giorni di riposo, ad esempio, magari esempio, nel gruppo Telegram hanno le idee. Le accettiamo. E se no, mandatevi consigli letterari, scusatemi, passate il giorno di riposo a leggere, noi vi facciamo un ultimo regalino per concludere questa giornata con il nostro lettore e Mahatma, per definizione, Gino Cervi, perché oggi ci siamo tutti un po' emozionati rivedendo Nairo Quintana là davanti. Si è emozionato anche Nairo, come avete sentito prima, e quindi Gino, gli ho scritto un messaggio dicendogli: ma vediamo come va la tappa, però secondo te riusciamo a mettere una lettura da Colombia Espasión di Matt Rendell su Quintana? E lui mi ha risposto: ti stavo per scrivere, ho già il libro in mano. E quindi ci salutiamo con una lettura da quel capolavoro che è Colombia Espasión di Matt Rendell, dedicata a un redivivo Nairo Quintana. Ciao. La porta di casa si apre su un giardino d'inverno vuoto che conduce all'appartamento vero e proprio. Emiro Lopez, poco più che sessantenne, attende sulla soglia tra la cucina e la stanza dove sua moglie, Isabel Monroy, conosciuta come Mamá Chavita significa semplicemente piccola, benché non sia particolarmente magra, ha gestito per molti anni l'asilo Pato Lucas. Gli occhi di Emiro brillano mentre viaggia indietro nel tempo, fino a un quarto di secolo fa. Era proprio qui che strisciava lentamente sul pavimento, dice. L'ho preso in braccio e si muove per ripetere il gesto di sollevare un bambino piccolo e incontrarne lo sguardo privo di conoscenza. E dissi a Isabel che non c'era vita in lui, che stava per morire. Nairito, il piccolo Nairo, di soli 8 mesi era macilento e indebolito dalla diarrea. Il suo stomaco era incredibilmente gonfio, i capelli ritti sulla testa. In pochi credevano che sarebbe sopravvissuto. In piedi, davanti a Emiro, con le spalle ai fornelli, c'è proprio Mamá Chavita, che in un bellissimo spagnolo rurale mi dice: «Tentaron de ese tiempo que lo había tentado era antes de defunto», che presumo significa qualcosa del tipo: «In quel periodo era stato tentato da un cadavere». Il verbo tentar richiama una sorta di pungolo, di sfida del coraggio. In altre parole, Nairo era stato in qualche modo provocato, messo alla prova da una strana forza di attrazione emanata da una donna morta. Era venuto al mondo il 4 febbraio 1990 il figlio di Luis Quintana, un commerciante della vicina Vereda Salvial, e di sua moglie Eloisa Rojas. I loro volti raccontano la storia di queste colline. Luis è rubicondo, di carnagione chiara, con gli occhi verdi. Eloisa ha capelli lunghi e lisci e lineamenti scuri da muisca. Da giovane Luis aveva affittato una baracca accanto a una strada trafficata e aveva aperto un negozio di generi alimentari. È facile da trovare. Basta aprire una qualsiasi mappa online e cercare Tienda La Vigita. L'imponente casa in cui ci troviamo è la prova dell'acume commerciale di Luis. Il negozio gli permise di acquistare dei terreni, metterne alcuni a coltura, allargare la sua proprietà e sposare Eloisa Rojas, una cliente di Vereda San Rafael dall'altra parte della strada. Quando aveva 20 anni, Eloisa rimase incinta di Willington Alfredo. Si chiamava così per via del calciatore Willington Ortiz, 49 presente nella nazionale colombiana, ma tutti lo chiamavano semplicemente Alfredo. Poi arrivarono Esperanza e Lady, un nome divenuto comune dopo che Diana sposò il principe Carlo nel 1991. Alfredo pensa che i suoi genitori abbiano trovato i nomi del quarto e del quinto figlio, Nairo Alexander e Dyer Humbernay, leggendo i giornali. Eloisa mi ha raccontato di essere stata abbandonata da bambina. Come ho scoperto solo di recente, nacqui da una famiglia con 8 figli. Sono stata cresciuta da una donna chiamata Sagrario Rojas e che mi ha amato come se fossi figlia sua. Sagrario morì pochi mesi dopo la nascita di Nairo. Eloisa andò a renderle omaggio e portò il bambino con sé. La malattia iniziò 3 giorni più tardi, racconta Eloisa. L'uomo che aveva vestito il cadavere doveva aver toccato il piccolo Nairo. Molti anni dopo, Nairo mi ha parlato di un sistema di credenze che risale a molti anni fa, secondo il quale i cadaveri emettono un'energia negativa che, in caso di contatto, impregna i bambini non ancora nati o i neonati. Per curarla si possono usare solo rimedi naturali, non è una questione di medicina scientifica. Come atleta, Nairo è stato sottoposto al metodo scientifico sin dalla sua adolescenza e sa esattamente cosa sta dicendo. La scienza e la medicina moderne, per quanto benefici possano portare, appartengono a uno stile di vita che ha soffocato la visione del mondo della sua infanzia, che rende la malattia e la sopravvivenza di Nairo, più che dati medici e biografici, portatori di un'identità e persino forme di resistenza. Los Antiguos consigliarono a Donna Eloisa di raccogliere i boccioli di 9 piante medicinali, di farli bollire e di bagnare Nairito nell'acqua.